diciamo così, un po' tecnica, però cerca di farlo attraverso le storie. Il film di fatto racconta appunto questo progetto di sanità che è in atto a Trieste da più di 10 anni nelle periferie della città. Il progetto è unico nel suo genere perché vede, diciamo, la sinergia delle istituzioni, quindi del comune, dell'ente per l'edilizia residenziale, agire sul territorio. Ma qual è la particolarità del progetto? È che il progetto mira a costruire comunità, perché l'idea di fondo che lo muove è che il benessere delle persone passa attraverso il loro benessere emotivo, relazionale. E questo è un concetto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ormai da diversi anni, più di 10, e che è all'ordine del giorno per gli addetti ai lavori, ma noi tutti, insomma, i cittadini ne sono un po' poco al corrente. Ecco, quindi l'intento del film è proprio raccontare qual è la quotidianità del lavoro di questi operatori sul territorio, che mettono in atto un approccio di salute diverso da quello istituzionale, quindi diverso da quello ospedaliero, diciamo, ma agiscono nella vita quotidiana delle persone, considerandole non solo attraverso le loro problematiche di salute, ma essendo di sostegno in tutta la vita della persona, quindi cercando di costruire una relazione. Il progetto vive a Trieste proprio perché, essendo un progetto di respiro basagliano, essendo Trieste la città dove Basaglia ha agito di più, insomma, negli anni, insomma, in cui ha chiuso i manicomi, eccetera, il progetto nasce proprio dall'onda di Basaglia, perché chi lo ha creato e l'ha messo in pratica sono i suoi eredi. Ecco, così. Erika, come sei venuta a conoscenza di questo progetto e come hai deciso poi di filmarlo? Io sono triestina, vivo a Trieste, quindi conoscevo bene il progetto perché mi occupo delle tematiche della salute e di quelli che sono i retaggi basagliani da tantissimi anni, da quando ho deciso, insomma, di avviare la mia carriera di filmmaker. Però di fatto ho capito la portata di questo progetto solo nel momento in cui mi sono avvicinata fisicamente, quindi ho iniziato a stare dentro questi contesti che sono di fatto dei luoghi fisici all'interno delle periferie, e nello specifico ho iniziato a frequentarne uno, ho passato diverso tempo a capire, a conoscere la realtà sia del progetto che delle persone che popolavano questo posto, e a quel punto ho capito che quello che mi interessava era proprio far luce su questo approccio diverso di questi operatori che danno così tanta importanza alla relazione empatica, diversamente da quello che forse tanti di noi sono abituati a vivere nel rapporto con la sanità medicina, che è sempre un rapporto dove si creano delle distanze, no, dei ruoli. Invece nelle microaree, così si chiama il progetto, è proprio la relazione a muovere tutto, insomma, l'empatia, la vicinanza e il coinvolgimento anche delle persone nelle questioni che li riguardano tutti, quindi nelle questioni del quartiere. Vedere tutto questo mi ha colpito molto, perché non ti aspetti, insomma, che la medicina possa significare anche questo, quindi stare vicino, dentro ai contesti delle persone, che l'istituzione può essere così vicina alle problematiche delle persone anche se non sono strettamente legate alla salute. Vedendo le riprese del documentario si nota un miglioramento, i miglioramenti che questo esperimento porta nella comunità. Sì, io cerco di raccontarlo, non è tutto rose e fiori, perché ovviamente le situazioni che io ho raccontato sono anche situazioni difficili, cioè il progetto ha ancora molto senso proprio in quelle zone dove le fragilità delle persone sono più marcate. Però il fatto di avere questo punto di riferimento e essere stimolati ad aiutarsi gli uni con gli altri e a stare insieme, decisamente crea il cosiddetto, in termine tecnico, capitale sociale, crea comunità, e quindi di fatto la realtà è che stare insieme fa bene, insomma. Ed è un esperimento ancora più lodevole se pensiamo allo smantellamento della sanità pubblica. Tocchi un punto fondamentale, motivo per cui il film, diciamo così, ha anche un intento un po' di denuncia, non tanto rispetto appunto allo smantellamento della sanità pubblica, ma al mettere in luce che un progetto di questo genere esiste ed è applicabile. C'è un'alternativa, c'è ed esiste, basta solo volerla mettere in pratica. I risultati ci sono e sono già documentati. Il film coglie un momento critico di questo progetto, che è in atto già da 10 anni, ma è applicato solo qui. E ci si chiede, gli operatori si chiedono, come mai non si riesca a espandersi, insomma, a portare questo modello anche al di là dei confini della città. La domanda va posta alle istituzioni, perché il progetto richiede una volontà anche politica di applicazione, proprio perché è un progetto istituzionale, no? Sì. Cioè non sono associazioni o cani sciolti, ecco. Che tipo di distribuzione sarà, Erika? La distribuzione è curata dalla produzione, che è l'Attico Film, in sinergia con lo scrittoio, e si è scelto di costruire, insomma, un tour in diverse città che punta proprio alla creazione dell'evento, proprio perché il senso del film è anche la diffusione, la conoscenza del progetto, e quindi si mira a costruire un dibattito, motivo per cui il tour del film è in associazione alla presentazione anche del libro omonimo. Infatti il titolo del film, La città che cura, viene da La città che cura, microaree e periferie della salute, testo edito dalla collana 180, che è una collana che si occupa di tutte queste tematiche, che racconta la stessa realtà del film attraverso una raccolta di storie ed esperienze degli operatori nelle periferie di Trieste. Quindi ogni proiezione sarà accompagnata da un dibattito in cui un operatore sociosanitario che fa parte del progetto lo presenterà direttamente insieme a me, in modo da poter allargare la discussione. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, la pagina Facebook della città che cura avrà tutti gli aggiornamenti sulle date previste, l'uscita il 9 maggio al cinema La Compagnia di Firenze, e prossimamente saremo a Milano e a Roma, e poi al Festival del Garda e al Festival L'altra mente di Foligno, e poi man mano, insomma, ci saranno gli aggiornamenti sulla pagina. Allora, ricordiamo il documentario La città che cura, al cinema da giovedì 9 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Erika Rossi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, crepi il lupo. Ciao. Ciao. Con Sabrina Varani, regista del documentario Ruanda, il paese delle donne, a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, una proiezione con dibattito giovedì 9 maggio 2019. Sabrina, ben trovata. Ciao Federico, grazie dell'invito. Se ne parli? Sì, allora, questo progetto è iniziato esattamente un anno fa, sono stata coinvolta dall'associazione Progetto Ruanda Onlus, che lavora sul territorio ruandese da subito dopo il genocidio, con progetti di sostegno soprattutto appunto alle donne e ai bambini, e diciamo l'intenzione era di fare qualcosa che potesse ricordare il 25esimo anniversario, diciamo, dalla fine del genocidio, che appunto ricorre quest'anno. Quindi insomma abbiamo cominciato a lavorare insieme su un'ipotesi di progetto e ci siamo immediatamente focalizzate sulla questione femminile. Perché? Perché diciamo il paese non solo dopo 25 anni ha superato ovviamente il dramma e la devastazione che si era verificato 25 anni fa, ricordiamo, con un genocidio che ha praticamente in 3 mesi devastato il paese con un milione di morti in circa 100 giorni di uccisioni e massacri, e in questi 25 anni si è ricostruito in modo incredibile, perché adesso il Ruanda effettivamente è uno dei paesi africani che ha più che ha il più alto tasso di sviluppo e non solo, ma realizzato attraverso il ruolo centrale delle donne, che appunto già nel miracolo economico di questo paese è un ulteriore pregio e eccezionalità nel panorama non solo africano ma proprio mondiale. Infatti, come dato diciamo centrale c'è quello della presenza femminile nel Parlamento, che in Ruanda praticamente è del 62% nel Parlamento, quindi il 62% dei parlamentari sono donne, quindi una percentuale altissima, per noi assolutamente impensabile. E quindi quando per raccontare questo percorso abbiamo chiaramente immediatamente pensato che era il modo migliore per raccontarlo, ovvero focalizzare sul percorso delle donne questa storia. Quindi sono andata in Ruanda l'estate scorsa, ho passato lì circa un mese incontrando varie associazioni di donne che in questi 25 anni hanno appunto compiuto un percorso straordinario, perché le donne, come sappiamo, in tutte le guerre, ma in questa in particolare, sono state vittime di terribili violenze che molto spesso hanno portato di stupri di massa, proprio lo stupro usato come arma di guerra, stupri di massa che hanno portato poi a tantissimi bambini nati da questi stupri, che in qualche modo le donne hanno dovuto poi gestire non solo materialmente ma anche e soprattutto psicologicamente. Quindi sono tanti temi che abbiamo cercato di raccontare in questo breve film, che diciamo per me spero che sia l'inizio di un percorso, nel senso che vorrei sviluppare ulteriormente tutte queste tematiche in un lavoro di più ampio respiro, che spero di mettere in cantiere presto. Per quello che hai visto quando sei andata, questa forte presenza femminile come si è espressa? Diciamo che si esprime in tutti i campi della società, nell'economia, nella politica, nelle imprese, nei ruoli di potere, cioè le donne sono ovunque in ruoli di potere, di responsabilità, sono in qualche modo la ricostruzione proprio del paese è stata molto affidata alle donne, per un fatto anche molto pratico, nel senso dopo il genocidio il paese era abitato per il 70% da donne, perché ovviamente gli uomini erano in più larga misura stati uccisi, quindi l'indomani del genocidio il paese aveva proprio demograficamente una composizione particolare, quindi il governo che è instaurato l'indomani della fine del genocidio ha avuto almeno la lungimiranza di incaricare le donne sopravvissute e con un livello di istruzione sufficiente a prendere in mano le cose. Quindi questa impostazione di 25 anni fa si è concretizzata in un empowerment, così si dice, delle donne che magari prima erano solamente abituate a ruoli secondari e di qualche modo di cura, come tradizionalmente era anche almeno nella fase precedente al genocidio, e invece si sono trovate a dover gestire i ruoli di responsabilità in tutti i campi. Quindi oggi, a distanza di 25 anni, questa cosa ha portato dei frutti straordinari di appunto una parità di genere che è rara non solo come ripeto in Africa ma in generale nel mondo, e quindi è un'esperienza che si vede proprio concretamente nel quotidiano, ecco, nei ruoli di responsabilità si trovano spessissimo donne. Questo è diciamo il dato più visibile che si può anche constatare andando semplicemente a fare un viaggio in Ruanda. Che percorso farà il tuo documentario? Allora, il documentario è stato prodotto grazie a un contributo dell'Unione Europea attraverso le ONG piemontesi, quindi per il momento ha avuto una diffusione capillare soprattutto nella regione Piemonte, che è appunto il nostro tramite produttivo principale. E quindi diciamo ha avuto e sta avendo una grande diffusione in Piemonte. A Roma è stato presentato alla Casa delle Donne l'8 aprile e ora speriamo di portarlo in giro e di mostrarlo soprattutto anche nelle scuole, perché diciamo è un tema, questo del genocidio, che è stato raccontato pochissimo, e almeno in Italia pochissimo, e anche molto male, perché tanti

successivamente poi ho fatto una lunga ricerca insieme a Marina Maggioni, cercando appunto i diari dei soldati, e ho messo in parallelo, diciamo, in dialogo i diari di questi soldati con le immagini di Corbarid, Caporetto, come appare oggi. Hai utilizzato anche materiale d'archivio? No, ecco, questa è una, mi fa piacere che me lo domandi, perché non ho fatto questa cosa qui, e sarebbe stato una risorsa naturale e scontata, e invece ho voluto che il ricordo della vita dei soldati passasse solo attraverso la voce, che tra l'altro è la voce di Alessio Boni. È vero che non ci sono particolari materiali d'archivio, cioè ci sono in realtà dei video, insomma dei film girati nel 18, però avrei fatto un altro tipo di film, invece volevo fare un film solo con le immagini d'oggi e lasciare, come dire, la parte storica, la parte di ricordo solo alla professora testimonianza e alla voce dei soldati interpretati da Alessio Boni. Le voci di queste lettere, che sentimenti ti hanno suscitato? Io sono rimasto molto colpito quando sono andato lì, appunto perché in questo paese, oltre ai paesaggi bellissimi che si trovano, c'è un museo dove è ricostruita tutta la battaglia di Caporetto. In particolare al piano terra di questo museo c'è una mostra che cambia ogni 6 mesi, dove sono raccolti i diari dei soldati. Ecco, tu hai detto le voci di questi soldati, mi ha colpito perché in effetti nel leggere questi frammenti di diari di soldati che ci sono lì al museo, a me sembrava di sentire le voci di questi soldati. E mi hanno colpito in particolare perché, pur essendo le testimonianze di sia soldati italiani che soldati austro-ungarici, avevano lo stesso tono, la stessa, diciamo, raccontavano la stessa umanità, e per me questo è stato determinante, pur essendo un coro di voci di tante migliaia di persone diverse, alla fine era una sola voce che gridava, diciamo, un no determinato a quella guerra, che non aveva senso, ma direi a tutte le guerre, perché nessuna guerra ha senso. Da qualche settimana stai curando l'uscita, accompagnata dalla tua presenza. Raccontaci un po' di questa formula. Sì, è un film, io ho sempre fatto film, diciamo, indipendenti. Spesso ho deciso di fare dei film anche quando non avevo la produzione, appunto producendomi da solo. In questo caso, come altre volte, ma ancora di più, perché è un film, come dire, anche difficile da portare nella sala. È un film sperimentale, basato su delle immagini, anche se di eccezionale qualità, perché il film è girato in 4K. È un film dove il suono ha una grandissima importanza, perché abbiamo fatto tutto un lavoro particolare sul suono, che non anticipo, ma che però si apprezza soltanto in sala. Quindi ho pensato di distribuirlo da solo, ma solo in alcuni eventi, diciamo, speciali. Abbiamo fatto una proiezione a Milano il mese scorso, e adesso facciamo queste due proiezioni a Roma, al Cinema Farnese il 13, come dicevi, e l'8 invece all'interno del Roma Traffic Festival. Quindi è una, diciamo, una circuitazione auto-organizzata, sto cercando di portarlo in altre città, Torino, Firenze e via dicendo, però tutto, diciamo, fatto in casa, e che il modo per portarlo anche con la mia presenza e a farlo vedere soprattutto alle persone con cui in questi anni ho creato un rapporto. Però naturalmente spero che vengano molti altri, che vengano anche molti altri spettatori. A questo proposito, ci lasci tutti i riferimenti internet per maggiori dettagli? Guarda, le informazioni sono visibili su Facebook sostanzialmente. Per quanto riguarda il film, intendo, c'è una pagina che copre il film, e poi per quanto riguarda invece lo sbigliettamento, diciamo, per quanto riguarda il Cinema Farnese, c'è il sito del cinema, che è www.cinemafarnese.it, mentre per quanto riguarda il Roma Tre Sinistre si trova sia la pagina Facebook che il sito, che adesso non ricordo, però se si ricerca su Google Roma 3 col 3 a numero Film Festival si trovano le informazioni sul festival e quindi anche sulla proiezione. Accompagnerò io personalmente, come dicevi prima, la proiezione, mi farò accompagnare anche da Fabrizio Mandro, che ha montato e coprodotto con me questo film insieme all'Università Roma 3 e a Peppe Leonetti in Candenza Film, e Fabrizio Mandro mi accompagnerà durante le proiezioni perché lui è stato, diciamo, insieme a me anche ha una grande responsabilità, diciamo, della genesi del film. Ricordiamo questo doppio appuntamento con il film Cobarid di Cristian Carmosino al Roma 3 Film Festival l'8 maggio e al Cinema Farnese il 13 maggio 2019. Cristian, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie e a presto. Con Stefano Guerini Rocco per parlare del Festival Orlando a Bergamo dal 3 al 12 maggio 2019. Stefano, ben trovato. Ben trovato a te, Federico, grazie. Tu ti occupi della parte cinema, però intanto descriviamo cos'è, diamo una panoramica generale di questo festival. Allora, so che segui il Festival Orlando da anni, ma per chi non lo sapesse, tra i tuoi ascoltatori, Orlando è un festival di cinema, ma anche di teatro, di musica, di danza, di incontri, di letteratura. È un festival che cerca di, diciamo, promuovere degli spazi di resistenza culturale, la chiamiamo noi, per creare appunto degli spazi di incontro, di scoperta, di riconoscimento dell'altro e nell'altro. Le parole chiave di tutto quello che mettiamo in piedi nella settimana, appunto negli 8 giorni dal 3 al 12 maggio, come hai ricordato tu, sono quelle del sottotitolo del festival, sono identità, relazioni e possibilità, sono tre parole chiave che spiegano lo spirito di Orlando. Per quanto riguarda il cinema, focalizziamo l'attenzione su qual è la proposta. È molto varia quest'anno e si integra con le altre offerte di teatro e di letteratura e di danza, dicevo prima. Se l'apertura quest'anno è dedicata al teatro con Middlesex, dei Modi, Silvia Calderone, poi finiranno Chiara Bersani, con Sidney Unicorn, Ciro Guglielmi, il Collettivo Cinetico, per il cinema la nostra prima serata sarà all'insegna del documentario e il documentario femminile, perché abbiamo come film d'apertura Normal di Adele Tulli, che sarà presente e incontrerà il pubblico dopo aver presentato appunto il suo documentario alla Berlinale, nella sezione Panorama. E anche i nostri ospite in trasmissione. Ah, perfetto. Allora vedremo di capire qualcosa ancora più prima che arrivi da noi. È un documentario, beh, come lo conoscerai, molto, molto bello, molto particolare, un documentario di osservazione sull'identità di genere, sugli stereotipi dell'identità di genere, della rappresentazione di genere nel nostro paese oggi. Gli abbiamo affiancato un altro documentario di una giovanissima documentarista che si chiama Floriane De Vigne. Il documentario è Niderni d'Adam e l'abbiamo visto quando è stato presentato a Jean Durel e ce ne siamo innamorati e abbiamo deciso di fare questa coraggiosa accoppiata di apertura. Detto ciò, la proposta, dicevo appunto, è ampia e i film passano dalla commedia al dramma, probabilmente le due perle, anche se non dovrei dirlo, poi diciamo i miei preferiti sono sicuramente Blair & Mare e Grey Reed, titolo internazionale Sorry Angels, che viene direttamente da Cannes, regista Christophe Honoré, che è famoso per aver fatto Mamère, Chanson d'Amour, La Belle Personne, ed è un film che io ho trovato immenso, è proprio un fiume di emozioni, di contraddizioni, è davvero meno militante rispetto a 120 battiti al minuto, che è uscito un paio di anni fa e che mi aveva molto colpito, ma è attraversato dalle stesse spinte vitalistiche, dalla stessa connubio tra amore, morte, incontri e scontri. Abbiamo in anteprima internazionale, in anteprima nazionale invece, un film sloveno di Darko Stanze, che è Conseguenze, un bello spaccato mercato molto teso, anche brutale, una bella storia di formazione, bella feroce, diciamo, su tema della maschilità tossica. E poi passiamo appunto da film drammatici come L'animale di Caterina Munkstein, anche questo presentato a Berlino, sull'identità di genere tra il sociale e il privato, il collettivo pubblico e invece l'intimità personale, e chiuderemo con due grandi commedie. La prima è Tact, di un giovane regista inglese britannico, una commedia india agrodolce su un'amicizia molto particolare tra due drag queen, una molto anziana, quasi sull'orlo del pensionamento, e una molto giovane, un film scritto deliziosamente, recitato benissimo, e chiuderemo con questa nuova avventura che abbiamo intrapreso a Orlando, quella di riscoperta dei cult, ci ho detto drag queen, ci ho detto una strana coppia, chiuderemo con il vizietto. Abbiamo già provato appunto questa avventura di riscoperta dei cult questo Natale, lo scorso Natale, un evento extra festival, abbiamo presentato Vittoria Vittoria ed è andato molto molto bene, quindi abbiamo deciso di riprovare l'esperimento per chiudere in bellezza, per lanciare poi con la festa di chiusura che chiuderà appunto Orlando il 12 maggio. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web e anche i luoghi del festival? Certo, allora il festival è un festival itinerante, ma è tutto a Bergamo, le proiezioni saranno principalmente all'auditorium di Piazza Libertà, ma trovate tutte le indicazioni specifiche, le informazioni su www.orlandofestival.it. Ricordo, 12 maggio a Bergamo, è la sesta edizione, un festival che cammina da solo con le sue gambe, perché appunto è supportato adesso dalla neonata associazione Immaginare Orlando, alla quale è possibile iscriversi e associarsi direttamente durante i giorni del festival. 12 maggio, www.orlandofestival.it. E allora un saluto e un ringraziamento al curatore della parte cinema, Stefano Guerini Rocco. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, Pepe il Lupo, e ci vediamo presto. Con Vito Zagarrio, direttore del Roma 3 Film Festival 2019, a Roma al Teatro Palladium dal 6 al 12 maggio 2019. Vito, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Sono 14 edizioni che abbiamo fatto. E prima era nato il festival come costola del Festival Arcipelago, che nel frattempo non si fa più per i soliti problemi di finanziamento. In Italia è difficile fare ormai queste manifestazioni, la cultura non è molto ben vista in questo paese. E poi siamo diventati autonomi, e in particolare adesso il festival si fa da molti anni al Teatro Palladium, che è un teatro di Roma 3, è l'Università Roma 3 che gestisce il Palladium, c'è una fondazione, e facciamo teatro, musica, danza e anche cinema, diventato una specie di sala cinematografica, anche se particolare. Considerato che è venuto a mancare Arcipelago, come si caratterizza questo Roma 3 Film Festival? L'idea è di dare spazio a varie manifestazioni, a varie generazioni di cineasti, i grandi maestri e i giovani, attenzione al nuovo cinema italiano e in particolare al cinema che viene dagli ambienti studenteschi, dagli ambienti del dance, per esempio Claudio Giovannisi, autore della Paranza dei bambini, ma prima ha fatto Fiore, Alida, gli occhi azzurri, è un laureato nostro, oltre che mio ex allievo al centro sperimentale, e però accanto a lui c'è Pupi Avati. Quindi concluderà il festival un incontro con Pupi Avati, che insieme al fratello Antonio Avati, il produttore, ha fatto tantissimi film, e quindi incontrerà il pubblico, non soltanto degli studenti. Tra i vecchi, vecchi nel senso di vecchi, anche vecchi militanti del cinema, c'è Citto Maselli, che è uno storico regista, anche molto impegnato politicamente, su cui è uscito un libro, e allora gli facciamo un omaggio e una tavola rotonda. Però tra i giovani, invece, tra le donne, c'è Laura Bispoli, che ha fatto due bei film, sempre col target al femminile. Insomma, a noi interessa il discorso sul gender, e durante l'anno abbiamo fatto molti incontri sul cinema al femminile. Come testimonianza anche della nostra attenzione alla società, alla politica, facciamo anche una tavola rotonda sull'accoglienza. Ci saranno due registi molto noti, uno è Andrea Segre, documentarista e autore di film di fiction, molto attento al tema della migrazione, con il suo ultimo documentario, e poi Daniele Gaglianone, Dove bisogna stare, che è un po' simbolico di una posizione che noi abbiamo sul tema dell'accoglienza e della migrazione. E poi tanti altri incontri, per esempio una cosa a cui tengo molto è che noi al Palladio abbiamo restaurato un proiettore in pellicola 35. Allora da tutto quest'anno noi stiamo facendo una serie di proiezioni di film restaurati dalla Cineteca Nazionale, Centro Sperimentale di Cinematografia, e quindi gli studenti, ma il pubblico in generale, possono vedere dei film in 35, cosa che ormai non si vede più, il vecchio cinema. Ad esempio facciamo in 35 un omaggio a Bernardo Bertolucci, facciamo in 35 una copia restaurata preziosissima delle Mani sulla città di Rosi, e allo stesso Avati faremo vedere una copia dell'Arcano incantatore che concluderà il film. Quindi fare vedere alle nuove generazioni il cinema come era una volta a me fa particolarmente piacere. Nel complesso quante le opere presentate e poi quali sono gli orari di queste giornate? Sono tante, adesso non so dirti il numero perché ci sono anche, considero opere anche i cortometraggi, certo. Ci sono 5 giorni di cortometraggi fatti, c'è un concorso riservato ai giovani che si chiama Carta Bianca Dams, soprattutto per i under 35 provenienti dalle università. Poi ci sono degli esempi di corti, anche di cose che ho fatto girare io dai miei studenti, dai laboratori di filmmaking di Roma 3. Quindi c'è una selezione di corti, soprattutto di giovani che siano impegnati nell'università e dintorni. E poi anche alcune opere speciali, con la presenza di attrici, di registe, eventi speciali, eccetera. E poi ci sono le tavole rotonde e le proiezioni, di solito ci sono incontri con registi nel pomeriggio, ad esempio segnalo un incontro con Francesco Micichè, che è intanto è figlio di Lino Micichè, insomma, mio maestro, fondatore del DAMS, critico storico del cinema. Lui è diventato un regista ormai piuttosto noto perché ha fatto dei film anche mainstream, commedia, però ha fatto dei documentari e delle docufiction piuttosto impegnative. E poi segnalo anche l'anteprima romana di un film di un mio collaboratore che si chiama Cristian Carmosino, che ha fatto un film molto interessante, anche se molto sperimentale, molto difficile, che si chiama Kobarid, che sarebbe Caporetto in sloveno, quindi dedicato alla tragedia di Caporetto, un film sulle lettere dei soldati italiani durante la disfatta di Caporetto. Insomma, quindi ce n'è tanto, ce n'è per tutti. Gli orari si inizia dalle 3:30 in poi, 3:30-4 a secondo delle giornate, quindi primo pomeriggio i cortometraggi, secondo pomeriggio incontri, anteprime, tavole rotonde e poi la sera soprattutto il film con l'incontro con l'autore principale. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? C'è anche un mio blog, Vito Zagarrio, trovate tutto, comunque Roma 3 Film Festival, c'è un sito, c'è il riferimento del Teatro Palladium, quindi tra Teatro Palladium, Roma 3 Film Festival, Vito Zagarrio, trovate tutte le informazioni necessarie. E allora ricordiamo la 14ª edizione del Roma 3 Film Festival al Teatro Palladium dal 6 al 12 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Vito Zagarrio. Un abbraccio. Venite, passate parola, fatelo sapere, perché poi sono festival che si fanno con finanziamenti minimi, quasi a costo zero, con l'università, però con la bellezza di questo Teatro Palladium, che è un piccolo gioiello dell'Università di Roma 3, che io voglio valorizzare anche sul settore cinema. Va bene? Vi aspetto. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie anche alla radio, grazie a voi, ciao.